Parliamo di crisi climatica perché, come sappiamo, sabato scorso si è conclusa COP26, la conferenza sul clima di Glasgow, e il documento finale è ritenuto insoddisfacente da praticamente tutte le associazioni ambientaliste. Per andare nel dettaglio, però, noi siamo in collegamento telefonico con Antonio Tricarico di Recommon, che saluto, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, sono diversi i punti critici del documento finale di COP26, quali sono i principali? Come detto, sono diversi. Comunque, rispetto alle aspettative, potremmo dire che c'è stata solo una conferma di quello che ha detto il G20, cioè che l'obiettivo finale è quello di mantenere la temperatura entro 1,5 gradi. Però poi mancano degli impegni precisi su come si può ottenere questo. Cioè, rimane sullo sfondo che a metà del secolo ci sarà una sorta di neutralità climatica, ma anche qui i paesi vanno in ordine sparso da 2050 a 2070. Si sa, lo dice la scienza, che bisogna ridurre già al 2030, quindi in questa decade, del 45% le emissioni, cioè quasi di dimezzare, ma sostanzialmente le azioni messe in campo sono davvero molto sotto le aspettative. E andando più nello specifico, dal lato della finanza, che era un po' centrale insomma in questo vertice, di fatto rispetto alle richieste dei paesi più impoveriti o comunque sia di quelli che soffrono maggiormente i cambiamenti climatici, non si sono messi altri soldi sul tavolo, quindi i principali paesi in cui cioè soprattutto quelli occidentali, che storicamente hanno questa responsabilità, non sono andati oltre questo impegno dei 100 miliardi della finanza per il clima, che in realtà è già stato disatteso rispetto a dove essere raggiunto al 2020, 100 miliardi l'anno, in realtà forse si raggiungerà al 2023, ma soprattutto i nuovi meccanismi, cioè come finanziare, come sostenere le misure di adattamento, visto che i cambiamenti climatici avvengono, come sostenere le compensazioni storiche, chiamiamole, per le perdite e i danni, e su questo si è detto sì, si discuterà prossimamente di come aumentare le risorse, ma in realtà non si è messo nulla sul tavolo, quindi questo è chiaro che complica molto le relazioni internazionali. E poi l'aspetto, diciamo, che è diventato più paradossale è che dopo 30 anni quasi si menzionava per la prima volta la parola combustibili fossili, che insomma è abbastanza ovvio che se noi non smettiamo con l'utilizzo dei combustibili fossili ovviamente le emissioni aumenteranno. Per la prima volta si è menzionato, ma poi in realtà si è detto semplicemente che si aumenteranno gli sforzi per ridurre gradualmente, neanche eliminare, l'utilizzo del carbone, e peraltro neanche tutto il carbone, perché lì dove ci sarebbero queste fantomatiche tecnologie di assorbimento delle emissioni, allora potrebbe essere ancora utilizzato. Anche qui tecnologie che oggi non ci sono e difficilmente saranno funzionanti nel prossimo decennio, e quindi si rimanda ancora il problema. Infine si è discusso della questione dei mercati di carbone, una questione annosa, perché sappiamo come di fatto questa storia di creare dei mercati per lo scambio dei permessi di inquinamento rimane molto controverso, in primis perché spesso si realizzano progetti insomma che hanno una dubbia efficacia rispetto al contenimento delle emissioni, e seconda cosa è che comportano anche impatti sociali o ambientali localmente sulle popolazioni, soprattutto sulle popolazioni indigene nelle foreste. Bene, si è detto, comunque si è andato avanti dicendo sì, si crea un mercato globale di queste emissioni, quindi connettendo anche dei mercati già esistenti come quello che esiste in Europa, in California, in parte in Cina o in Brasile, e di fatto i governi potranno scambiare questi permessi fra di loro. Esiste un problema grosso, che è quello del conteggio di queste emissioni, cioè chi riduce, chi le compra, chi le vende, cioè come evitare i doppi conteggi e trucchi vari che insomma già stanno avvenendo. Si sono messe in piedi delle regole, ma molti osservatori insomma ritengono che sono abbastanza deboli, quindi si va avanti in una logica di mercato, ma in realtà per sopperire a un fallimento nell'adottare politiche industriali di profondo cambiamento che abbandonino i combustibili fossili. C'è anche un altro punto, forse minore ma forse no, che riguarda i sussidi alle fonti fossili, perché c'era la buona notizia, quello di azzerarlo, ma c'è un aggettivo forse che vanifica tutto, perché si parla di azzerare i sussidi ai fossili inefficienti. Verissimo, e questa era l'altra, diciamo, definizione, insomma, direi quantomeno poco ortodossa. Cioè si dice azzerare quei sussidi che sono inefficienti, come se esistano dei sussidi che sono efficienti. In realtà poi si aggiunge una riga dicendo tenendo in conto le esigenze dei più poveri e tenendo in conto i percorsi di transizione da avviare. Ora è chiaro che se parliamo di sussidi dal lato del consumo, quindi in paesi particolarmente poveri dove per esempio il prezzo della benzina può essere sussidiato in parte. È chiaro che è una questione, ma io la reputo una questione abbastanza marginale rispetto ai sussidi che invece continuano ad andare in maniera cospicua, parliamo di centinaia di miliardi di dollari sul lato della produzione invece di nuovi, soprattutto nuovo petrolio e gas. È quello che la stessa Agenzia Internazionale dell'Energia ha detto, bisogna fermarsi da subito con l'espansione del petrolio e gas, quindi con fermare nuove esplorazioni eccetera. Quindi quello che era entrato finalmente nell'agenda, anche perché c'è stata un'iniziativa guidata dal governo inglese, sottoscritta da vari governi, clamorosamente anche dal governo italiano, cioè che entro la fine del 2022 appunto si vuole smettere con questi finanziamenti, diciamo, diretti internazionali a nuovo petrolio e gas di fatto, e allo stesso tempo questo non viene riflesso nel testo finale, insomma, di tutta la conferenza. Quindi noi ci troviamo ancora una volta un contesto in cui a livello multilaterale in realtà si trovano poi escamotage per finire in un impasse, come al solito ritardare l'azione, mentre poi ci sono alcuni paesi che cercano di muovere alcune iniziative, ma il cui impatto ovviamente può essere in ultima istanza anche limitato. Quindi è una situazione, diciamo, di sicuro deludente quella in cui ci troviamo in questo momento. Io ricorderei che questa era la conferenza che doveva, 5 anni da Parigi, poi è stata rinviata di un anno per la pandemia, validare quelli che erano i piani di lavoro dei singoli paesi per raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi, e gran parte di questi piani di fatto sono stati bocciati, insomma, se lo diciamo un po' fuori dai denti, perché sono totalmente inefficaci. Insomma, si è calcolato che ci porteranno a un aumento della temperatura di 2,7 gradi quantomeno, e si è detto che okay, tra un anno riportate i piani che siano migliori, ma insomma qui mi sembra davvero un approccio, permettetemelo di dire, insomma, la volemose bene a fronte di un'emergenza che comunque si risulta ogni giorno sempre più grave. Una nota di metodo, perché ieri il ministro italiano Cingolani, ministro della transizione ecologica, ha osservato come funziona un po' COP26 con questo unanimismo necessario per il documento finale, e ha detto forse l'impianto è da rivedere, perché mettere d'accordo quasi 200 paesi con interessi e anche condizioni diverse è un po' difficile. Ha ragione Cingolani? Ma io penso che si faccia un po' di retorica su questo, perché poi non mi sembra che il G20 abbia messo d'accordo, tranne l'obiettivo di 1,5 gradi, insomma, su tutto il resto. E non i problemi, se il governo faceva riferimento alle difficoltà anche di avere impegni ancora più ambiziosi da parte di India, Cina, paesi emergenti, non mi sembra che questi siano arrivati in consessi che sono anche più limitati. È indubbio che noi abbiamo una crisi del sistema multilaterale, un sistema che peraltro è totalmente infiltrato sistematicamente da lobby come quelle appunto del settore petrolifero, che quindi di fatto molto facilmente, insomma, finisce in una melina di ritardi eccetera. Però poi quali sarebbero queste altre sedi dove diventa tutto molto più efficace? Se si vuole dare buona fede a chi sostiene questo, allo stesso tempo bisogna dire come si fa, diciamo, anche in qualsiasi altro consesso, diciamo, che può essere la famiglia, la società, una comunità, inizia a dare tu il buon esempio. L'Italia, insomma, ma ad oggi non mi sembra che brilli nel buon esempio rispetto alla transizione. Questo, io ho sentito molta retorica di dire questo è un problema che riguarda tutti, la soluzione bisogna trovarla tutti, sì, però esiste tutta una tensione internazionale, una geopolitica che riguarda poi quella dei combustibili fossili, di conseguenza quella della transizione, che non è che la risolviamo nell'arco di qualche mese. A fronte però di un'emergenza vanno fatte anche delle scelte a difesa, insomma, della salute e della vita dei propri cittadini. Quindi penso che alcuni paesi, anche se altri non si muovono, si dovrebbero muovere, poi di conseguenza avere anche più credibilità nei confronti di altri. Insomma, credo che ci sia molta retorica, così come l'essersi presa all'ultimo momento solo con l'India. Insomma, ci sono mille indicatori che vanno considerati, le emissioni pro capite, che comunque sia di un paese come l'India, sono molto basse rispetto a quelle di altri paesi. Quindi chi dovrebbe avere più ambizione, le responsabilità storiche, insomma, sono un elemento che pesa nelle relazioni internazionali, non possiamo considerarlo solo un elemento del passato come se sia risolto. Quindi ecco, bisogna un po' uscire dalla retorica e fare proposte concrete. Se ci sono altri meccanismi, il ministro li dicesse. Proprio su questo volevo farti un'ultima domanda: è possibile un salvataggio del pianeta, semplifichiamola così, a più velocità, appunto, di là di COP e dei suoi risultati? Però potrebbero esserci paesi virtuosi che applicano magari misure più radicali, più drastiche rispetto a quelle trovate in queste conferenze? Oppure è una questione, come dire, soprattutto anche di interessi economici, e quindi se non lo fanno tutti non lo fa nessuno? Ma forse bisogna distinguere, perché per esempio noi abbiamo delle dinamiche di mercato anche nel settore finanziario, dove probabilmente con una regolamentazione molto più forte i capitali si inizierebbero a spostare e indirizzare altrove. È chiaro che questo avrebbe impatti sull'economia, ed è chiaro che ci si preoccupa molto di questi impatti sull'economia, e specialmente in un'ottica anche di dinamiche di potere ci si preoccupa che alcuni campioni nazionali possano perdere peso rispetto ad altri soggetti, perdere quote di mercato, eccetera. Quindi di sicuro questo è il principale elemento che frena, cioè l'elemento di dire ok, dobbiamo fare una transizione, ma io poi ciascuno vuole essere un po' sicuro che in questa transizione continua ad avere una relazione di potere, in una certa misura di dominio, ad avere un posto, diciamo, preponderante nei nuovi mercati energetici, nei nuovi mercati tecnologici. Esiste poi un problema, diciamo, di finanza, che è quella che permette comunque sia di finanziare ancora tanto i combustibili fossili anche nei paesi in via di sviluppo, ed è principalmente finanza occidentale o cinese. Quindi poi esiste un problema di trasferimento di tecnologie, cioè nel senso che tante cose oggi si possono già fare, però è chiaro che esistono licenze, esistono regole commerciali, quindi tutta questa dinamica, chiamiamola economico-finanziaria, pesa tantissimo. Se si innestano poi le dinamiche appunto geopolitiche, si complica ulteriormente, quindi è possibile che ci si muove qualcuno di più. Ma penso che da un lato si può iniziare, come dire, diventa una scommessa anche politico ed economica, cioè di dire io anticipo la transizione perché ritengo che in questo modo non solo sto contribuendo, ma sarò anche preparato. E poi io penso che esista anche la questione degli adattamenti ai cambiamenti climatici, che ormai sta diventando un problema serio. Insomma, pensiamo anche all'Italia, col dissesto idrogeologico che abbiamo nel nostro paese, avremo problemi seri. Quindi è chiaro che diventa a questo punto un bilanciare vari interessi, cioè quello dell'interesse pubblico, ma c'è anche dell'interesse di essere un po' più visionari e di dire in ultima istanza a noi ci conviene perché questo avverrà, e se altri non si muovono, certo che potrebbero nel lungo termine loro avere degli impatti economici più profondi. Quindi forse ha più senso avere la forza anche di accelerare la transizione e vivere questi impatti economici oggi, e magari è un'occasione anche per rendere la società nostra più giusta. Quindi ci vuole visione politica, ci vuole visione di pianificazione, quello che manca, diciamo apertamente, molto ai governi, motivo per cui le azioni poi diventano inefficaci. Antonio Tricarico, grazie mille. A voi. Buon lavoro. Ciao, grazie.